Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 7 minuti, buona domenica, da Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero e comincia con i numeri, come al solito, perché li do, e subito gli sms al 349-238-6666, va bene, indirizzo di posta elettronica guerriero@radio24.it e il numero verde, perché alle 11.30, come ogni domenica, si gioca col mistero in 24 minuti, per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, quindi libri cartacei o elettronici, e dovete arrivare alla soluzione attraverso gli indizi musicali che vi farò ascoltare. Più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà, ma come sempre vi faccio ascoltare il primo indizio di questa settimana. Sì, viaggiare. Eccolo qui, canzone che avete sicuramente riconosciuto e che introduce anche tra l'altro l'argomento di oggi. Vi do il numero verde perché potete prenotarvi da adesso, 800 24 00 24. La risposta per il mistero in 24 minuti può essere come sempre una notizia della settimana oppure un personaggio o qualcosa di particolarmente conosciuto. Dicevo viaggi perché oggi cercheremo di non essere lost in translation, ovvero persi in quello che è la traduzione. Film molto famoso, forse l'avete visto, di qualche anno fa, anche molto divertente, dove ci si ritrova ad affrontare una lingua, in quel caso se non mi sbaglio era il giapponese, che non si conosce affatto e che onestamente insomma è difficile da interpretare, quindi uno cerca sempre delle assonanze con i vocaboli della propria lingua sbagliando completamente la traduzione di qualunque cosa. Per cui, siccome l'estate è qui e molti di voi sicuramente partiranno per località dove probabilmente l'italiano non sarà la lingua ufficiale, insomma, bisogna destreggiarsi in qualche modo. Noi come italiani l'inglese non è che lo si sappia particolarmente bene, però devo dire, anche quando lo si sa un po', poiché l'inglese è considerato lingua internazionale, è difficile capire gli stranieri, cioè i non inglesi che parlano inglese. Cioè quando un tedesco parla inglese o un giapponese parla inglese, comunque ognuno ci mette dentro un po' i suoi vocaboli, le sue accentazioni e tutto diventa un po' complicato. Insomma, cercheremo di capire come comportarci, come parlare soprattutto e che cosa fare quando si viaggia all'estero oppure quando si rimane in Italia ma si ha a che fare con gli stranieri. Succede per esempio sulle spiagge, no? Quando si vuole in qualche modo conoscere magari quella dell'ombrellone di fianco e che parla immancabilmente tedesco, che se non lo si sa diventa una lingua complessa. Di questo parliamo, quindi fatevi sentire anche con le vostre esperienze, con i messaggi al 349-238-6666, e per cominciare cominciamo con l'incomprensibile. Prison call in ancient usual. You the cold maids say one prison call in ancient usual. All right. Hey, I my chance let in a film should know a prison. I may just say one piece in combination and two song, all right. You know it's you not feel as you can call them and don't. There's people that have to like big yo. Ecco, non preoccupatevi se proprio non riuscite a tradurre le parole di questa canzone, perché tanto sono intraducibili, sono completamente inventate. C'è qualche parola inglese messa lì ma mischiata ad altro. Insomma, Adriano Celentano, quando scrisse questo pezzo, era proprio per far capire come a volte è semplicemente il suono che trasporta un brano al di là di quello che le parole dicono. Anche in questo caso appunto non dicono assolutamente niente. Eric Slogan, ciao, buona domenica. Buona domenica a voi, buongiorno, anzi good morning. Sì, infatti, guarda, allora io prima di introdurti, visto che sei in un posto, adesso non svegliamo ancora dove, voglio far sentire questo pezzetto di un episodio dei Simpson. Abbiamo confiscato la vostra auto e il suo contenuto. Nous avons confisqué votre voiture et ses contenus. Potete lasciare il Canada ma non tornarci mai più. Vous êtes permis de quitter le Canada? Mais vous n'avez plus le droit de rentrer. Sono un mega idiota francese. Je suis un grand, gros... Allora, cosa succede? Homer va in Canada a comprare dei farmaci perché a Springfield sono diventati particolarmente cari. E succede questo: in Canada ci sono due Canada, c'è quello francese e quello americano, e lui chiede la traduzione in inglese perché lì pare che sia obbligatoria. Eric Slogan in questo momento è proprio in Canada, giusto? Ecco. Esatto, sono nel Canada inglese, per essere precisi. Quindi non nel Quebec. No, non nel Quebec. Attenzione alla voce di Eriks, perché là sono 5 del mattino, che ore sono? No, esattamente sono le 4. Ah, ecco, e quindi, un quarto. Ecco, stanno dormendo tutti. Sono un po' rauco, mi chiedo scusa. No, figurati, ma stanno dormendo tutti. Allora, Eric Slogan, l'illusionista internazionale, siamo partiti da lui proprio perché ha girato, penso, tutto il mondo. Beh sì, sono stato parecchio in giro un po' in tutti i continenti, Asia, Africa, America naturalmente, però dimmi. No, la questione è i pubblici, nel senso che la prima cosa che un artista deve affrontare è il pubblico, e i pubblici cambiano, cioè il rapporto alla nazione dove si è, la risposta, diciamo così, di chi è seduto in platea è completamente diversa, immagino. Guarda, è assolutamente vero, al di là del fatto che poi può cambiare da sera a sera, ma questo è, andiamo troppo nello specifico, però è vero che ci sono delle linee generali, e cioè che il pubblico, per esempio, posso dire subito, il pubblico asiatico è un pubblico che guarda lo spettacolo molto attentamente, ma quasi troppo attentamente, nel senso che si dimentica di applaudire. Ecco, perché tu credi di essere sul palco senza dare nessun tipo di emozione, e quindi dici sto andando malissimo, poi invece alla fine il pubblico esplode. Il riposo del guerriero. Con Eric Slogan stiamo parlando di pubblici in giro per il mondo, appunto siamo partiti da quelli asiatici. E quindi Eric, scusami, ma se io italiano, quindi mi dovessi trovare a uno spettacolo appunto in un paese asiatico, mi viene da applaudire a metà spettacolo, durante una scena, e guai, sarei l'unico a farlo, in poche parole. Esatto, infatti questo sarebbe molto interessante, perché probabilmente gli spettatori si condizionano anche un po' tra di loro. Sì, certo. E questo è un altro aspetto molto interessante. Io credo che non applaudiresti, perché tutti si girerebbero verso di te dicendo ma come mai questo disturba? Perché il senso applaudire può essere considerato anche un disturbare in un certo momento, mentre invece è normale per questo pubblico applaudire soltanto alla fine, magari anche in maniera esplosiva, con una classica standing ovation, sai, quando si alzano tutti in piedi. E questa è veramente una cosa inaspettata, quando poi magari per 30, 40 minuti, un'ora, un'ora e mezza hai ricevuto solo dei piccoli cenni. Ecco, ecco, ma una curiosità, tu non so, quando hai affrontato il pubblico asiatico, questo lo sapevi o l'hai scoperto a tue spese? Allora, l'ho scoperto a mie spese, l'ho scoperto mezz'ora prima di andare in scena, quando l'impresario, il produttore, ha detto ah guarda, mi sono dimenticato di dirti una cosa, non farci caso, perché guarda che non applaudono molto, però vai, tu vai avanti. Quelle cose proprio che ti fanno un grande piacere. Certo. A pochi minuti. Anche perché noi, cioè, gli artisti italiani, per esempio, noi siamo abituati a sentire proprio l'applauso, anzi, ma come gli americani, cerchiamo proprio di costruire gli spettacoli in modo che siano dei momenti in cui bisogna far scattare l'applauso o la risata. E il fatto che manchino questi momenti è difficile poi per noi trovare l'energia, ecco, nel momento in cui non la sentiamo. Per cui non è sicuramente semplice esibirsi davanti a un pubblico così. In quel caso lì devi inquadrare, riquadrare, diciamo, la tua formula in maniera da adattarla. E questo è un po' più difficile, ma però poi ci si fa anche l'abitudine, diciamo. Ecco, parliamo di colori, perché quando si gira per il mondo e si vanno a vedere gli spettacoli bisogna conoscere molto bene i colori, perché se si sbaglia può essere particolarmente doloroso. È verissimo. Beh, si sa naturalmente che in Italia è conosciutissimo il fatto che il viola sia un colore proibito nel mondo dello spettacolo, in teatro particolarmente, no? Sì, guai. Mentre invece, per esempio, senza andare tanto lontani dal nostro paese, basta valcare le Alpi e scopriamo che in Francia il verde è il colore da bandito, diciamo, mentre invece il viola anzi è ben accetto. Ecco, quindi non vestitevi di verde se dovete andare a teatro in Francia, perché davvero rischiereste di non poter quasi neanche entrare, perché forse c'è qualcuno che lo vieta, vero? Allora guarda, ci sono dei teatri, ci sono anche degli studi televisivi, non senza fare nomi, di sì, caratura nazionale, che nell'invito hanno proprio scritto, io ce l'ho a casa da far vedere a tutti, c'è scritto che mi raccomando non venite vestiti di verde perché vi può essere negato l'accesso, ecco, alla sala, allo studio. Quindi mi raccomando, perché invece pensate magari di essere particolarmente attraenti, anche perché chi di verde si veste di beltà si fida, ma invece in Francia se andate a teatro così non è. Erix, i tedeschi per esempio come sono come pubblico? I tedeschi sono un pubblico che adora qualsiasi forma di spettacolo teatrale, e sai, noi siamo abituati a pensare al pubblico della Germania come un pubblico un po' freddo, no? Invece non è assolutamente vero, è un pubblico che se ne intende tantissimo, che sa valutare, sa seguire, ma soprattutto ama divertirsi e anche applaudire e rispondere molto rumorosamente. Poi hanno anche un senso della comicità diverso dal nostro. E noi abbiamo un senso diverso non solo dal pubblico tedesco, ma anche da altri pubblici, cioè sì, una cosa reciproca. Gli americani, per esempio, ridono per niente, a volte hanno delle battute talmente per noi stupide, cioè ne so proprio che non fanno ridere, invece loro riescono a ridere, e quindi sì, bisogna anche capire i meccanismi. Il pubblico americano, e qui lo dico perché sono in terra americana, certo, Nord America, è il pubblico forse che noi consideriamo, fra virgolette, il più facile, nel senso che ama proprio divertirsi e fare casino, diciamo la verità. Sì. Però il problema è che, vedi, anche lì si possono creare dei piccoli problemi, perché delle volte fanno casino, fanno rumore, sghignazzano nel momento in cui ti aspetti una reazione molto più suave. Faccio un esempio: nel mio mondo, il mondo dell'illusionismo, la levitazione, cioè il sollevare una ragazza nel vuoto, è un momento etereo, un momento onirico, e tu magari nel momento di questo grande effetto ti trovi un pubblico che a un certo momento si mette a ridere, ma non è una risata di sberleffo, è una risata di stupore. E devi essere abituato a prendere, altrimenti poi la ragazza si sveglia e cade. Devi essere abituato a prenderla e a saperla distinguere da quella che magari invece speriamo mai sia quella dello sberleffo. Qual è il pubblico più difficile, Erix? Allora, guarda, io penso sempre al pubblico asiatico, ma forse il pubblico più difficile in generale, e qui non togliamo qualsiasi barriera, è il pubblico dei bambini, che hanno, a prescindere dalla nazionalità, un modo di vedere l'illusionismo tutto loro, perché loro credono nella magia, sì, quindi non, certe volte non distinguono. Sì, non è magico, per loro è naturale che una donna si metta a volare, perché se tu sei un mago devi farla volare per forza, voglio dire. Sì. Sennò, pertanto è molto più difficile stupirli, sì, e anche molto più difficile ingannarli, che è una cosa diversa dallo stupire naturalmente. Certo, certo. Vabbè, quindi un popolo di bambini asiatici sarebbe veramente un disastro, cioè un pubblico di bambini asiatici, nel senso che sia difficile da affrontare, per cui vabbè, non lo auguro per i maghi masochisti. Ai tuoi colleghi, esatto. Allora, Erix, io ti faccio tornare a dormire, ti ringrazio molto e insomma spero che tu non ti alzi domani mattina alle 9, perché altrimenti sarebbero poche ore. Domani non ho spettacolo, quindi posso riposare un po' di più. È un abbraccione a tutti, anche perché naturalmente quando si è lontani dall'Italia fa sempre piacere. Com'è il tempo? Spero che sia buono. Oggi no, è almeno il nord Italia, ma il centro-sud assolutamente sì. Ciao, buona domenica. E qui fa molto caldo. Ah, ecco, beh, quindi sì, andiamo in Canada. Io non ci sono a mai Toronto, stato. Dico anche dove sono. Ecco, ci verrei. Ciao Erix, buona domenica ancora, grazie. Ciao, ciao, ciao a tutti. Nihonni, nanne irundeska? Indeska? Irundeska. Giappone? Up. Japan, up. Giappone? Up. E dopo? Up. Giappone? Up. Nannen. Nannen. Come fa quella canzone? Ecco, questo era proprio un momento di Lost in Translation. Bill Murray in ospedale tenta di comunicare con un signore giapponese e cerca di trovare delle assonanze, chiaramente tutto non si capisce niente, ovviamente non è così che si fa. Paolo Maria Noseda, grazie, ciao, buona domenica. Ciao a tutti, ciao Stefano, ciao a tutti i radioascoltatori. Allora, dalla voce l'avrete sicuramente riconosciuto, Paolo Maria Noseda, il traduttore simultaneo che sentite e a Che tempo che fa. E Paolo, io non so che cosa dire, cioè non non so se posso dirti, perché non sono un invidioso, grazie al cielo, però ti invidio in senso buono. Ma come si fa? Ma è vero che tu leggi anche il labiale dei tuoi ospiti? Sì, io devo leggere il labiale dei miei ospiti, perché in televisione c'è l'horror vacui, e quindi devi essere il più possibile simile a un doppiatore, anche se noi non lo siamo. E quindi ho imparato il labiale, perché rimanendo qualche parola indietro io riesco a captare per esempio il verbo che l'ospite dice, e quindi capisco come finirà la sua frase. Guarda, io ho un sogno, Paolo, prima o poi dobbiamo farlo. Sì, io non so, però questo deve essere una cosa visiva, ovviamente. Io parlo senza parlare e tu interpreti, cioè fai come se io parlassi un'altra lingua e tu fai l'interprete, anche se parlo in italiano. Ah, perché... ma è capitato. Ecco, è vedi. È capitato anche in diretta. Sai, i fusibili sono traditori, e allora a volte salta qualcosa, rimane l'immagine, ma non si sente l'audio. Senti, Paolo, io volevo così chiederti qual è stato il tuo percorso, cioè da dove hai cominciato per arrivare a quello che sei oggi, perché francamente sei proprio bravo e insomma tutti lo dicono, lo si sente. Grazie. Perché, ma non peraltro, anche perché è difficile riuscire a capire l'intenzione di quello. Intanto, scusami, io lo so che continuo a aprire parentesi, ma avrei così tante domande da farti. Tu sai già un po' cosa verrà chiesto e che cosa risponderà l'ospite, o proprio non sai niente? No, mai, noi siamo senza rete, non lo sappiamo. E come sarebbe possibile sapere che cosa succede, per esempio, a Che tempo che fa, in 20-25 minuti di intervista? Puoi parlare di tutto. Sì, oppure sì. Devii dal seminato e improvvisamente, anche se l'argomento avrebbe potuto essere già conosciuto, si improvvisa e si va in altri lidi e con altri argomenti. Ecco, intanto sottolineo che non si tratta solo di conoscere perfettamente le altre lingue, ma si tratta di conoscere perfettamente anche la propria lingua, l'italiano. Assolutamente sì, assolutamente. Quindi partiamo da lì. E allora ritorno alla domanda: qual è stato il tuo percorso? Il mio percorso è iniziato da bambino, è iniziato viaggiando, è iniziato studiando un po' in Italia, un po' all'estero, e poi è iniziato con un grandissimo amore per carpire lo spirito di una lingua che secondo me si manifesta nelle cose intraducibili. Ecco, quindi insomma, questa passione è anche una dote, poi, perché ad esempio la capacità di leggere il labiale, da dove ti nasce? Pensi che sia un po' una dote o ti sei proprio allenato per... No, io ho proprio fatto uno studio particolare, così mi è venuto in mente ed è stata una trovata che poi alla fine professionalmente è servita. Anche perché a volte appunto il concetto è questo: salta l'audio, Paolo Maria non sente più quello che dice l'ospite, ma deve andare avanti con la traduzione, per cui l'unico modo io è quello. Spero non succeda, è successo 3 o 4 volte è successo. Poi i fonici nostri sono bravissimi, e ovviamente a volte è anche una faccenda di via satellite, c'è un certo decalage fra l'immagine e il parlato, perché le distanze sono quelle che sono e il satellite rimbalza in ritardo, quindi leggere il labiale serve. Ecco, ma tra l'altro tu sei velocissimo, io veramente a volte mi chiedo come fa che lo sta dicendo adesso a già dirlo. Volte me lo chiedo anch'io, però me lo chiedo. Ecco, non ti riascolti, immagino. Paolo, so che sei... Mi riascolto sempre, è vitale riascoltarsi, perché si riesce a migliorare, si capiscono gli errori che si sono compiuti. Io ho sempre un appuntamento col videoclip che la nostra web mistress Elena mette in onda il lunedì, e lì cominciano i dolori tutte le settimane. Ti riascolti. Senti, ti vorrei chiedere proprio una gaffe, se mai ti è successa, nelle tue traduzioni. Il riposo del guerriero. Oggi cercheremo di non essere lost in translation, siamo con Paolo Maria Noseda, traduttore simultaneo, in questo momento è a Londra, è la voce di Che tempo che fa, la voce che sentite tradurre, non lo vedete in faccia, purtroppo ci vorrebbe però un quadratino con la tua faccia, Paolo Maria. No, mai, noi siamo destinati allo strapuntino, sempre dietro le quinte. Senti, mai farti vedere. Allora Paolo, ti chiedevo appunto se così tu abbia mai in qualche modo sbagliato, preso una cantonata, tradotto in modo... Gli errori sono umani, gli errori ci sono sempre, bisogna certo limitare i danni. No, ma più che cantonate sono i momenti di imbarazzo, come per esempio mi viene in mente una volta nel corso di un'intervista con un giovane attore rampantissimo, il quale non rispose mai a nessuna domanda, ma sospirò per tutta l'intervista. E allora come tradurre i sospiri in altre lingue? Ma è stato veramente abbastanza difficile, ecco. Senti, è vero che sai anche il cinese? No, io il cinese l'ho studiato 9 mesi a New York quando sono stato lì per un periodo a lavorare, perché avevo a che fare con molte delegazioni che insomma spacciavano la loro conoscenza dell'inglese come sufficiente per capire le mie traduzioni simultanee, e capivo che loro non stavano capendo, e allora andai io alla Columbia University a farmi un corso per capire la struttura del cinese, per ridare loro le mie traduzioni verso l'inglese con la struttura del cinese, nella speranza che capissero di più. Ecco, quando si dice la professionalità, e tra l'altro tradurre appunto non è l'unica cosa, bisogna anche interpretare, cercare di capire che cosa dicono gli altri. Noi quali sono gli errori come italiani che facciamo più spesso quando parliamo in inglese? Quello di non pensare, quello di non di, ecco, quello di l'errore che più spesso viene fatto dagli italiani è proprio quello di non riuscire a dimenticarsi di essere italiani, e quindi non lanciarsi. Sbagliate, va benissimo, sorridete sempre, un errore detto e fatto sorridendo ha tutto un altro sapore, ma lanciatevi, anche se sapete 3 parole, usatele, fatele girare, riuscirete comunque ad esprimervi. Ecco, io tra l'altro mi sono scritto alcune parole che possono essere mal comprese dagli italiani o usate male, per esempio morbid, che non significa affatto morbido. C'è un aneddoto. C'era una signorina bellissima che andò dal medico, sì. E il medico la stava visitando, io stavo traducendo perché si trattava di una cosa che aveva a che fare con un incidente stradale, e il medico le disse: "Is it tender?" Toccandole il seno, e lei rispose: "I hope so." E il tender ovviamente non significa è soffice, ma le fa male, e la signorina si era molto offesa perché il medico pensava stesse facendo degli apprezzamenti poco piacevoli sul suo seno. Quindi è molto importante cercare di conoscere, è che noi cerchiamo le assonanze dappertutto. Morbide significa macabro, se non mi sbaglio. Ecco, non chiedete preservatives in farmacia, perché sennò vi danno i conservanti e quindi non Vi rifilano delle gelatine per fare le marmellate, e questo non aiuterà la demografia. Assolutamente no. Non, se vi dà fastidio qualcosa, non è fastidious qualcosa, giusto? Perché è una persona. Bothering. Esatto. E poi anche la sympathy, no? Una persona non è. La sympathy. Ci sono un sacco di bar sympathy in Italia che non vengono frequentati dagli inglesi, per esempio. Perché significa compassione. Se siete a un funerale, andare a prendere per esempio. Un caffè con compassione, insomma, è tutta un'altra cosa. Ma noi siamo molto bravi in questo, no? Usare le parole inglesi nel modo più sbagliato. Io mi ricordo, c'è una marca molto famosa di magliette che è Fruit of Loom. Sì. E l'imitazione aveva scritto Fruit of Loom. E Loom credo che voglia dire cretino, giusto? Sì. Uno sciocco, sì. Uno un po' matto. Ma lì ci sono faccende di copyright, quindi forse era fatto. Ho capito, certo, però tu se devi trovare una parola assonante, cercala che non abbia un significato, sennò la gente andava in giro con scritto la frutta sul cretino. Potuto fare Fruit of the Moon, che erano i frutti della luna, e sarebbe stato un pochino meglio. Per esempio, assolutamente sì. Paolo Maria, tu consigli di fare questo mestiere a così chi volesse cercare? Bellissimo, io lo faccio da 32 anni, da quando avevo 21 anni, sono felicissimo. Oggi sono a Londra, ho appena finito di fare un corso di finanza Imperial College, bellissimo, siate curiosi, è un lavoro che vi permette di mettere il naso ovunque, dalla politica allo spettacolo, dalla moda al business, bellissimo, davvero, io lo rifarei subito. A volte ti capita di non pensare in italiano, immagino di sì, o di sognare in inglese? Ogni volta che uso una lingua io mi dimentico l'italiano. Ma quante ne sai di lingue, scusa, non te lo chiedo? 5, io ne so 5. Male, tutte 5. Non parlo più con te, basta. Insomma, capita, ci sono anche queste disgrazie nella vita, no? Grazie Paolo Maria Noseda, insomma, bravissimo ancora, e ti sentiremo molto volentieri nella grazie prossima a voi. Stagione. Grazie a voi, buone vacanze a tutti. Grazie, ciao. Arrivederci. Scusate, ma come si fa quando una persona conosce 5 lingue, riesce a tradurre in questo modo? Perché poi non c'è niente da fare, quando hai facilità di comprensione e anche di eloquio con una persona che non parla la tua lingua, lingua, cambia tutto perché ti sai rapportare. Se no, davvero, conosci una persona e dici solo ah, how are you? E finisce lì la conversazione perché non la riesci a portare avanti. Per cui è veramente importante. E noi italiani non siamo messi benissimo con la conoscenza dell'inglese, siamo messi male anche con quella dell'italiano, purtroppo. Però anche con l'inglese non siamo messi affatto bene. Paolo Proietti, buona domenica. Buongiorno, buona domenica. Paolo Proietti è preside della Facoltà di Interpretariato, Traduzione, Studi Linguistici e Culturali dello IULM. Proietti, quindi partiamo proprio da qui, dal percorso di studi che credo che sia fondamentale, no? Beh sì, conoscere le lingue. Io ho sentito mentre ero in attesa quello che diceva Paolo Noseda, che tra l'altro è un nostro amico, riconoscendomi in pieno in quello che diceva, non pensare tutti quei concetti che venivano così snocciolati sono assolutamente fondamentali. Il processo di formazione è ugualmente fondamentale per così muoversi con curiosità e poi con professionalità nel dedalo delle lingue. La nostra facoltà, quella che lei ricordava, ha come obiettivo proprio questo, quello di intanto destare la curiosità di qualcuno che già dovrebbe averla nel momento in cui si iscrive, e poi niente, garantire un percorso professionale che consenta di inserirsi nel mondo del lavoro o come interpreti o come traduttori. Ecco, innanzitutto quali sono le lingue più richieste in questo momento? Ma dunque, l'inglese chiaramente rimane un must, numericamente anche lo spagnolo, è una lingua che desta molta molta curiosità, e poi i numeri sono lì a ricordarcelo, se non come lingua madre è sicuramente una seconda lingua molto molto richiesta e molto praticata, rimanendo nelle lingue occidentali. Ecco, però insomma credo poi le lingue orientali siano difficilissimi da imparare, però proprio per questo credo che siano particolarmente richieste anche. Particolarmente, guardi, il cinese, ma questo è evidente dalla logica dei mercati, in misura minore l'arabo, e invece no, pensando proprio alla realtà italiana, al contesto così socio-culturale ma anche economico, destano una nuova curiosità lingue come il russo e il rumeno. Il russo e il rumeno? Sì. Non sono affatto lingue facili neanche quelle, ma anche perché poi c'è l'alfabeto che bisogna imparare, non è così semplice, certo. E in effetti avvicinarsi, però insomma conoscere le lingue indubbiamente aiuta. Io poi le volevo chiedere anche la scrittura dei libri, perché ormai tutto è globalizzato e tutto quindi viene tradotto, e c'è anche un impoverimento quindi da un punto di vista della struttura delle lingue, parlo di tutte le lingue, perché così possano essere meglio tradotte, o sto dicendo un... No, assolutamente. Lei tocca una questione importante. Praticamente lei sta evocando quella che tentiamo di chiamare letteratura globalizzata. Tocca una questione importante nel momento in cui lei dice il testo, parliamo in questo momento immagino del testo letterario. Sì, certo, ecco, certo. Il testo letterario, nel momento in cui lo si pensa addirittura e lo si condivide tra autore ed editore, è già pensato in una logica della globalizzazione, nella logica delle infinite traduzioni che lo interesseranno e quindi del viaggio che il testo compirà in contesti, geografie e tempi anche diversi. Quindi si tiene conto già di tutto questo sviluppo futuro che interesserà la vita di quello specifico testo, che dunque verrà pensato in un originale suscettibile di essere mediamente brutto, purtroppo, però mediamente riprodotto. Qua ha veramente ragione Umberto Eco quando scrive quello splendido libro sulle esperienze di traduzione, che è dire quasi la stessa cosa, perché la traduzione non è mai una riproduzione fedele né di forma né di contenuto, però quando pensiamo a questa letteratura che vuole proprio in prospettiva garantirci una vita in traduzione, tradiamo veramente anche il principio del dire quasi la stessa cosa che ogni traduzione invece affronta e tenta di risolvere. E questo io credo che sia impossibile, se non con un risultato che è a detrimento della qualità. Ecco, quindi c'è un impoverimento della struttura proprio linguistica e della forma, perché... Sì, sì. Non è bello quello che stiamo dicendo, da un certo punto di vista. Purtroppo no, ma forse sono gli interessi del mondo dell'editoria che condizionano un po' le scelte di qualità, le scelte di stilistica, di, non dico tanto di contenuto, perché il contenuto transita anche attraverso, parliamo di temi, quindi di argomenti, transita attraverso anche i canali dei media a vario livello, quindi la letteratura si inserisce facilmente in questo, ma qua è proprio il modello, lo strumento che viene modificato e piegato ad esigenze che sono in definitiva di consumo. Ecco, Proietti, lei che è preside appunto della facoltà di interpretariato, il livello di conoscenza dell'italiano invece di chi affronta l'università per il primo anno, com'è? Qui pure andiamo a toccare, lei mi tocca tutte questioni. Lo faccio apposta, perché nel senso che io poi ho le mie opinioni ovviamente e voglio capire se in qualche modo così funziona o è soltanto un'opinione, no? Ecco. No, ha ragione, purtroppo il livello non è dei migliori, quindi la questione è molto importante. Intanto, in ogni discorso di mediazione, di traduzione interlinguistica, ogni riflessione ha senso se partiamo da un prerequisito, cioè la conoscenza buona, anzi ottima, della propria lingua madre e la capacità di sapersi esprimere con sfumature, dettagli nella propria lingua. Se questo requisito manca, ogni discorso di traduzione decade. Quindi bisogna partire da lì, certo. Qual è il livello? Non è buono. I ragazzi ci arrivano al primo anno già della triennale con una conoscenza, un controllo che talvolta è dato per scontato e che invece denota delle grosse lacune. Per questo, se posso aggiungere una piccola cosa, noi attiviamo dei laboratori di scrittura in lingua italiana che i ragazzi, devo dire con grande apprezzamento, a loro volta apprezzano e frequentano, quindi è un bisogno sentito anche da parte loro. Beh, chiaro, se non si conosce la propria lingua è impossibile poi tradurla in un'altra, ecco. Certo che comunque è un gatto che si morde la coda, se c'è un impoverimento da un certo punto di vista, parliamo della letteratura, quella che appunto è pensata per essere tradotta, automaticamente poi c'è un impoverimento anche del linguaggio, automaticamente, per forza, le due cose si associano e quindi ci mordiamo un po' la coda, dobbiamo fare qualcosa e sicuramente buttarci nel parlare anche lingue straniere, anche con non le conosciamo, ma poi cercare di migliorare la nostra a questo punto. Certo, ma lei pensi un po', quando si traduce un testo che inevitabilmente letterario non ci trasmetterà, ci trasporterà, non so, luoghi comuni, giochi di parole, proverbi, tutto quello che vogliamo dell'altra lingua e quindi dell'altra cultura, pensi a quanto sarà difficile riprodurlo per strutture di senso, oltre che per modello così di comunicazione nella nostra lingua. Questo è davvero un problema, lo è in generale già per il traduttore talentuoso. Franco Nasi, un grande traduttore, aveva scritto un testo, se non ricordo male, intitolato La malinconia del traduttore, proprio perché esprimeva quel senso di impossibilità a rendere fino in fondo le sfumature da una lingua all'altra in questo processo di trasferimento. Sì, è incredibile, perché poi tu che traduci, se lo conosci bene, ovviamente capisci perfettamente lo scrittore cosa voleva dire in quel momento, solo che non riesci a renderlo nella lingua della traduzione, per cui ti fa male, perché io non riesco a renderlo in quel modo. Beh, insomma, quindi lo capisco benissimo, è una sensazione che si intuisce, però l'entusiasmo di Paolo Maria Noseda ci dice anche che è bello affrontare questo percorso di studi e che credo che in quest'epoca della globalizzazione sia proprio necessario e fondamentale, per cui sì, può essere, su questo condivido in pieno, un input per chi dovesse scegliere appunto il proprio percorso di studi. Grazie preside. Grazie a voi, davvero. Buona domenica. E poi buone vacanze. Grazie. Paolo Proietti, preside della Facoltà di Interpretariato, Traduzione, Studi Linguistici e Culturali dello IULM. Il riposo del guerriero. Allora, abbiamo capito, prima di affrontare una lingua straniera, cerchiamo di affrontare la nostra. Francesca Dragotto, ciao. Buona ciao, domenica. Buongiorno. La nostra glottologa preferita. Allora, Francesca, dove grazie. Partiamo? Intanto noi, come già abbiamo capito, anche Proietti l'ha detto prima, ma questo l'abbiamo scoperto già molte altre volte, noi italiani con l'italiano un po' bisticciamo. Eh sì, anche quando parliamo di traduzione, il problema infatti riguarda in prima battuta la competenza linguistica di chi traduce, non tanto, o meglio, non necessariamente in prima battuta, invece la complessità della lingua di partenza. Ecco, quindi già è un punto. E, sì. E poi quando traduciamo dobbiamo anche stare attenti a come traduciamo. Beh, questo sicuramente. La traduzione può essere assimilata concettualmente ad un ponte, si deve andare da un punto ad un altro e si deve prediligere una via, quindi avremo una traduzione che può essere naturalizzante oppure straniante a seconda che si decida di rispettare maggiormente la lingua di partenza o quella di arrivo. Certo è che in entrambi i casi si deve essere padroni del numero più alto possibile di varietà delle rispettive lingue. Ecco, noi come italiani sicuramente prendiamo, quando parliamo in inglese, per esempio, o qualunque altra lingua, cerchiamo di costruire la frase partendo dall'italiano, ahimè. Certo. Ecco. Sì, questo è un problema di interferenza, quando l'altra lingua che viene acquisita oppure viene appresa, se in un contesto scolastico o appunto di apprendimento mediato, appunto, diventa propria di un parlante in maniera non naturale, quindi non per effetto dell'interazione comunicativa con i parlanti nativi di quella lingua, il risultato è che spesso si verificano delle interferenze, ovvero si attribuiscono strutture che sono proprie della propria lingua all'altra lingua, al modello, lo chiamiamo tecnicamente alloglotto, quindi letteralmente lingua alta. E l'esempio che tu facevi è proprio uno di questi: l'italiano costruisce le proprie frasi secondo una struttura che chiamiamo SVO, soggetto, verbo, oggetto. Se la seconda lingua, o comunque la lingua da cui traduciamo o in cui vogliamo provare a comunicare, non si organizza secondo la struttura soggetto, verbo, oggetto, e ce ne sono tante di lingue che non usano questa struttura, noi realizzeremo un prodotto che è a metà, a cavallo tra le due lingue e che quindi risente del nostro sistema di partenza. La cosa incredibile è che poi noi pretendiamo che gli altri capiscano, e invece non è così semplice. È vero che quando si sbaglia una pronuncia, l'italiano, quando si sbaglia un po' una pronuncia, noi riusciamo a capirlo lo stesso, ma ci sono lingue invece in cui l'errore di una pronuncia non fa proprio capire la parola. Cioè... In italiano nella maggior parte dei casi è come dici, però basti pensare a forme come pesca, pesca. In assenza di un contesto di riferimento, anche in italiano, semplicemente con la maggiore o minore apertura della frase, il significato cambia, della vocale, il significato della frase cambia completamente. Ah beh, certo, ma questo neanche gli italiani lo sanno. Chi è che sa la differenza fra coppa e coppa? Cioè, oppure tra botte e botte, forse la frase. Questo è più facile, sì, infatti, perché si usa più spesso, però. Insomma, se uno non sa qual è la coppa, chiaramente fuori dal contesto, dipende cosa vincerete, cosa vi daranno quando salirete sul podio, ovviamente, se vi danno una coppa o una coppa. E ci sono anche le traduzioni, bisogna anche, adesso ormai con i sistemi di traduzione automatica dei computer, no, quando navighiamo, stiamo attenti a traduzioni tipo quella che mi avevi citato, tra l'altro era comparsa su un manuale di istruzioni proprio di qualche tempo fa. Sì, stai parlando di uno degli esempi più belli di traduzione letterale che si sia mai trovata sul mercato. È il caso di dire sul mercato, perché il mittente è proprio una famosissima ditta produttrice di computer che anni fa, per inviare i propri ricambi, non dico ancora di quali ricambi si tratta perché altrimenti rovino la sorpresa, per inviare i propri ricambi oltreoceano qui in Europa, aveva allestito una manualistica nelle principali lingue europee. Allora, la ditta nel caso specifico trattava di mouse. Sappiamo bene che l'atteggiamento linguistico dell'italiano nei confronti dei termini stranieri è diverso rispetto a quello come del ci francese. Piace, beh certo, i francesi lo logiciel, che non si capisce cos'è, il logicoso, io lo traduco. Sì, logiciel, perché chiaramente facciamo riferimento all'attività razionale che sta alla base del computer, dell'ordinateur, sì. Esattamente, d'altra parte l'italiano avrebbe calcolatore, certo. Calcolatore che usa e che etimologicamente ha a che fare con i calcoli, cioè con i sassi, che in una fase prima precedevano l'uso del numero per tenere traccia delle quantità che si avevano a disposizione. Ma a noi piace computer, perché sappiamo come funziona. Computer, o addirittura PC o PC, se sì. Andiamo ad integrare l'acronimo. La mancata conoscenza di questo atteggiamento prono dell'italiano nei confronti dell'inglese ha portato la suddetta ditta di informatica a utilizzare per la traduzione del manuale di accompagnamento del mouse del mouse inglese, quindi dello strumento che si usa per interagire col computer in italiano, lo stesso atteggiamento che era stato utilizzato per il francese che usa souris, per lo spagnolo che usa raton o per il tedesco che usa mouse. Il risultato è un manuale che dice, come sapete, il mouse del computer si chiama, accorcio per evitare di prendere troppo tempo, le palle dai topi sono da oggi disponibili come parti di ricambio. Esatto, perché poi i mouse prima funzionavano con la pallina sotto e quindi la palla del topo si può sostituire. Quando sì. Un topo non funziona bene è perché ha la palla che non va, ecco, quello era il senso. Se il vostro topo ha difficoltà a funzionare correttamente o funziona a scatti, è possibile che esso abbia bisogno di una palla di ricambio. Ecco, quindi attenzione a non tradurre troppo letteralmente, perché altrimenti questo è quello che potrebbe succedere. Ce n'è una, ma ce ne sono tantissime. Francesca, avrò altre domande per te che riguardano però l'italiano, ma ci sentiamo nelle prossime puntate. Grazie. Grazie a te. Ciao Francesca Dragotto. A presto, buona domenica. John Peter Sloan, buongiorno. Buongiorno, come stai? Bene, bene. Io non so da dove partire da te, nel senso che io voglio partire dalle lezioni di inglese, ma la prima domanda che voglio farti è questa. A te, la S del plurale, quando si parla in italiano, vero che dà fastidio? Dimmi di sì, toglimi sta soddisfazione. Cioè, quando io parlo in italiano e non so, dico i computers, hai visto quanti files ci sono sul mio computer? Guarda, ti devo dire una cosa. Io, se non è una traduzione tecnica, che ovviamente in quel caso, sentivo adesso della traduzione. Sì, io celebro, io scoraggio gli italiani di cercare di pronunciare perfettamente come l'inglese, perché comunque è impossibile, non si può. No, perché è anche molto simpatico avere l'accento proprio, secondo me. Sono soltanto certe cose che infatti la pronuncia deve essere conosciuto bene, perché sennò fai certe figure. Io faccio un sistema di cose per le S, per esempio. Adesso lavorando su una cosa su bambini, ho fatto questo sistema della mosca e la serpente, perché l'S inglese o era mosca e la serpente, spiego. A volte è un S, per esempio l'italiano quando c'ha la consonante dopo l'S fanno. Io ero al Teatro Smeraldo, ho visto un musical di Natale che era molto bello, me l'ha rovinato un pochettino la canzone Silent Night, quando ho detto Sleep in Heavenly Peace. Sleep, a me il mio cognome dicono Sloan, come una, per noi quello è una mosca, è una Z, mentre sleep è serpente, sleep, small, ecco, quindi, è molto lungo. Quindi il suono, per questo è interessante, il suono dell'animale, in poche parole, è in questo caso è il suono dell'insetto, beh, nel caso della mosca, e invece del serpente. No, ma perché sono due sono modi due, diversi, certo, di pronunciare la stessa lettera, certo. Ma anche perché ci sono dei suoni anche che... purtroppo nei testi mettono sempre la codice fonetica, che e se guardiamolo in realtà io penso 90% delle persone non la capiscono. Sono difficili da interpretare, i codici esistono, devono esistere, ma sono difficili da interpretare. Appunto. Allora, John, io ho tante domande per te, e questa, la S ad esempio è una di queste, ma era sul plurale, e ho questa curiosità. Allora, hello si scrive con la H-A-L-L-O, dico bene? No, H-E-L-L-O. H-E-L-L-O, quindi scriverò con la A è sbagliato. Sì, è un mezzo tedesco. No, hello è con la E. Ci sono delle suoni che gli italiani usano in diverse altre occasioni. Per esempio, uno che io quando insegno l'uomo che sta male, per esempio, l'uomo che sta male è perché io immagino un uomo quando sta molto male fa. Allora, questo suono è fondamentale in inglese ed è la colpa del 90% degli sbagli che sentono. Per esempio, invece di work. Perché l'R, l'italiano insiste di mettere l'R. Invece non va messa, certo. No, l'R non c'è nemmeno in inglese. Noi abbiamo un T. Cioè, quando è l'ultima lettera non c'è mai. Ti devo bloccare perché c'è il GR, ma poi continuiamo a parlare. Il riposo del guerriero. Le 11.30. 11:06, vi ricordo ancora il numero perché alle 11:30 giochiamo col mistero in 24 minuti, ci sono 1000 euro per voi. 800 24 00 24. Stanno arrivando un po' di sms, tra i quali anche delle traduzioni che dovrei fare in diretta, ma non mi permetto di fare perché so che sono quei giochini dove tu traduci in un modo, poi invece il senso è tutt'altro. Allora, sono con John Peter Sloan al telefono. John Peter, perdonami la pronuncia del tuo cognome, già quella S lì non so da quale fare, la mosca o il serpente, cosa devo fare? È il serpente. Sloan, eccolo. Sloan. Piuttosto farlo troppo lungo ma non troppo corto. Va bene, allora ascoltami, stavamo parlando della R e noi italiani, ma come i sudamericani, la R la mettiamo proprio, la deve rotare proprio, è un rotacismo, dobbiamo farla sentire per forza, se no non vi siamo simpatici se non mettiamo, se non diciamo you are, no, non siamo simpatici, no? Mi sbaglio? Non è quello, no. È solo che guarda, io è come un po' io c'ho mio amico Robert, che io non giro più con lui perché fa benissimo avere l'accento inglese, ma lui è proprio staglio olio, cioè un cappuccino per cortesia, cioè ci sono dei limiti. Io il suono che ti facevo prima, sì, che è l'uomo che sta male, sì, che è questa no? Sì. Cioè quello lì, allora guarda, work Thursday. Ma se io mi metto a parlare così in radio, se dico work, ma questo è giusto, questa è perfetta. Se tu hai quel suono, sì, non c'è problema. Se tu mi dici work o Thursday, ti metto insieme a Robert, capito? A casa, senza amici. Ma noi dobbiamo cominciare a parlare italiano. Senti, allora, John, invece l'inglese ovviamente è la lingua che ci apre un po' le porte in tutto il mondo, dobbiamo dirlo, certo, è così. Certo. Noi italiani, qual è l'errore che facciamo più spesso, secondo te, quando abbiamo l'approccio con qualcuno che parla invece inglese, o anche qualcuno che è un tedesco, un francese, che però parla inglese, insomma, ecco. Sì, allora, l'errore in realtà, mi hanno chiesto in passato questa domanda, ci sono tanti, cioè perlomeno gli italiani fanno tutti gli stessi errori. Sì. Io miro, però finché si capisce, perché io sono molto fan della comunicazione, cioè non vedo un grande tragedia se la pronuncia è sbagliata, in certi casi è molto pericoloso, e lì miro quelli, per esempio la lenzuola che è shit, certo, sì, lungo, se lo fanno troppo corto, sai, se io, ma anche un foglio di carta, no, si può usare la, bravo, stessa parola, e io sai che evito di dirlo per non sbagliare, perché sennò non sto scherzando. Sì, no, ma è come io con scopare, il verbo lo so che se tu pulisci per terra scopare va bene, però vuol dire un'altra cosa, certo. Io dico scolo, io non parlo, non lo usi. No, infatti c'ho la casa sporchissima perché non ci No, vabbè, adesso non voglio andare a comprarla, perché no, ma veramente, perché ogni volta lo sbaglio, io non ho ancora capito il trucco, cioè un italiano fa stavo scopando per terra e nessuno ride. Quello dico io è ovvio, perché nessuno ride, perché il contesto è molto cavo della frase. Tu, essendo straniero, automaticamente noi lo leggiamo con un altro senso, ma perché siamo stupidi, quello è il poi alla fine. No. Ecco, perché volevo arrivare lì, ecco John, quando veramente la pronuncia sbagliata non permette agli inglesi di comprendere, e quando invece un po' ci giocano, cioè fanno finta di non capire, perché è quello che noi innervosisce e blocca, no? Quando tu tenti, mi ricorderò sempre, guarda, ero in un ristorante a Londra, ho chiesto una soap, ho sbagliato perché ho chiesto il sapone, tu non sai questa come mi ha ripreso la cameriera, ma volevi? Io volevo la zuppa. Ah, sorry, no. Però è ovvio che non potevo chiedere un sapone a cena, certo. Ecco, sarebbe stato impossibile. Allora, bisogna capire quando veramente la pronuncia non permette di comprendere, invece quando un po' ci si fa. Ti lo dico. Allora, il numero uno è quando gli italiani pronunciano la come un è. Per esempio, per dire cattivo dicono bad, e io non so chi sta insegnando queste cose in giro, ma tutti, cioè loro dicono bad, you are bad, che vuol dire sei un letto, sì, che sei cattivo. Lo stesso con sad, loro dicono io sono triste e dicono I am sad, che vuol dire, e sad è il passato di dire, e sei, quindi perché è insegnato che la inglese è più vicino un alla è vero, non è vero. Ora, una cosa importante tantissimo. La inglese non c'è un giusto, corretto, unico A. Cambia a regione. Mio consiglio è di pronunciare sempre la italiano, che sarebbe quella inglese, quello del nord Inghilterra. Quindi è meglio dire bad, scusami. Bad, assolutamente. Ma io dico così, io sono di Birmingham, sì. Io dico you are bad. Apple, non dico apple, dico apple. Dico sad, I'm sad vuol dire sono arrabbiato, sì, triste, esatto, sì. Sì, usi le A italiano è uguale alle A che c'è a Nord Inghilterra in queste parole. Quindi non cercare di fare l'accento all'americano, perché comunque, essendo straniero, come tu hai appena detto, io capisco letto. Cioè, quindi tu dici è proprio vera l'incomprensione, non è l'altro che non vuol capire, è che proprio non si capisce, cioè questo è il senso, ecco. Ma a volte nel contesto si capisce, ma non sempre. Non sempre. Ma non sempre. Uno mi ha scritto, un studente, e mi ha detto: no, io adesso ho ascoltato Bad di Michael Jackson e lui proprio canta I'm bad. Sì? E io dico, ok, ma questo è un discorso melodico, e lui è un cantante americano, sta cantando, cioè il peggior fonte di... Ma noi impariamo anche da Lady Gaga, voglio dire, l'inglese, no? È ovvio. Allora cioè, siamo a posto, allora. John, adesso ti faccio una domanda, stai attento come rispondi, vengo a prenderti, No, devi essere sincero, qual è... diciamo così, lo stato che parla peggio l'inglese nel mondo. Ho paura che tu dica l'Italia, perché veramente c'è, cioè, gli italiani. Io mi dispiace dirlo, però devi. Non dico, è come sul primo pagina del mio libro ho scritto, questo libro è dedicato a tutti gli italiani che pensavano di essere loro il problema, quindi difendo, il livello qua è abbastanza dietro rispetto a, io sono stato in Germania, sono stato in Olanda, è molto più avanti, ma semplicemente perché l'insegnamento è superiore e poi li beccano molto molto prima. Per risponderti alla domanda, io in Italia, perché io ho girato tutta l'Europa come cantante, e qui mi sono trovato in più difficoltà degli altri, questo è vero. Quindi il livello è basso, però è non sta sull'italiano, sta comunque, cominciano troppo tardi a imparare l'inglese. Ecco, quindi, insomma, siamo messi proprio male. L'italiano lasciamo perdere, abbiamo sentito prima. L'inglese anche non ci rimane niente, cioè proprio lasciamo perdere. No, guarda, io Italia, sto cercando di pensare a un paese dove parlavano peggio. Allora, Kenya? Niente. No, ci credo, guarda, ci credo. Niente, tutti i miei sforzi li butto perché non servono, ho già capito. Ne abbiamo bisogno di... No, hai ragione, comunque adesso lo dico un po' scherzando, però dovremmo impegnarci di più. È importante conoscere... No, ma secondo me però l'italiano è un blocco. Adesso parlando seriamente, l'italiano io da insegnante andavo in aula, c'erano tutti gli studenti che sembravano che erano da dentista, che dicevano vabbè, è una cosa dolorosa, necessario, finirà. C'è proprio è un cane ferrito l'italiano sull'inglese, esatto, è vero, però purtroppo, perché quando cominci a girare un pochino per il mondo, semplicemente navighi in rete e scopri quanto sia davvero importante conoscere almeno un'altra lingua. L'inglese ovviamente è quella che un po' ci permette di comunicare con tutti, quindi è proprio importante. Quando si comincia a viaggiare questo si capisce, quindi invito a migliorarsi, vale per tutti, assolutamente, per me per primo. John Peter, ti ringrazio tanto e insomma continua a insegnare con mosche e serpenti e il malato che sta male per imparare le nostre pronunce. E l'insegnamento di Bud mi va benissimo, mi hai dato molto. Ciao John, grazie, buona domenica. Io mi devo veramente scusare con Orlindo Riccioni, che avrei dovuto avere come ospite ma non ce la faccio. Lui ha scritto per Le Vie del Mondo, è un ingegnere, imprenditore industriale, ha viaggiato, pensate, in tutto il mondo per lavoro e ha 16 passaporti, ha girato tutti i continenti almeno 5 volte, avrebbe avuto tantissimo da raccontarci, ma purtroppo siamo in ritardo, non riusciamo a sentirlo. Mi scuso con Orlindo e speriamo di averlo nostro ospite molto presto. Il riposo del guerriero. Io voglio ringraziare tanto gli ascoltatori, anche state scrivendo moltissimi sms, molti con domande che avrei dovuto rivolgere a John, ma chiaramente non l'ho fatto, era una chiacchierata al di là poi delle lezioni di inglese che comunque sicuramente fanno bene. C'è chi un po' ci difende anche, per esempio Amy Ripley scrive, attenzione come ho cercato di pronunciarlo un po' con un suono vagamente straniero, e dice: gli spagnoli sono peggio degli italiani perché ci sono delle lettere che proprio non riescono a dire, è un po' come i cinesi che non riescono a dire la nostra R. Qualcuno scrive gli indiani, insomma, però non è che siamo messi molto bene, siamo onesti. E poi appunto ci sono richieste di come si pronuncia questo o quell'altro, bisognerebbe fare veramente di ogni puntata del riposo, bisognerebbe farne un'altra, perché ci sono sempre molte cose da aggiungere. E adesso è arrivato il momento invece dedicato al mondo dei videogiochi. Video game. E anche in questo caso l'inglese è fondamentale, tant'è che tutte le didascalie e le spiegazioni sono spiegazioni che trovate in questa mostra della quale adesso parleremo, sono in inglese, anche in italiano, ma sono in inglese perché devono parlare a un pubblico internazionale. Deborah Ferrari, ciao, buona domenica. Ciao Stefano, buona domenica anche a te. Allora, Deborah è la curatrice della mostra neoludica. Per la prima volta i videogiochi entrano a far parte della Biennale di Venezia, per la prima volta nel mondo, è un evento mondiale questo, quindi. Assolutamente, è una prima mondiale proprio perché per la prima volta la sezione Game Art, Arts Games, Machinima e tutto quanto riguarda proprio il mondo dei videogiochi, anche i titoli proprio, i videogiochi stessi, entrano in una manifestazione di così grande valore artistico riconosciuto a livello internazionale. Mostre ce ne sono state tante in vari stati e in vari musei, però è la prima volta che c'è un'operazione così completa per il mondo dei videogiochi. Ecco, allora, l'arte nel vostro caso parte proprio dal videogioco, cioè il videogioco è lo spunto per fare in modo che alcuni artisti possano esprimersi, per cui troviamo proprio, che cosa, Deborah? Da quadri, chiamiamoli così, adesso non vorrei sminuire ma è difficile da spiegare, più da guardare come mostra, io l'ho vista con te e quindi ci sarebbe veramente tantissimo da dire, ma come possiamo raccontare agli ascoltatori? Ma brevemente intanto che si tratta di un padiglione proprio degli eventi collaterali della Biennale di Venezia, quindi chi arriva a Venezia trova su tutte le mappe in giro, su tutte le brochure, l'indicazione del nostro padiglione, che fra l'altro è sdoppiato ed è la prima volta anche che noi in questo modo, con questa mostra, facciamo assegnare un bollino, quindi il prestigioso bollino del Leone Rosso della Biennale di Venezia, anche a Mestre. Noi siamo sdoppiati in una parte di padiglione in Venezia, vicino alla ferrovia, fra l'altro comodissima da raggiungere sulla strada per Rialto, e al Centro Culturale Candiani di Mestre. Questo lo dico anche perché è importantissimo comprendere come abbiamo selezionato e impostato le visite proprio per il concetto storico. In Venezia il pubblico trova un'installazione tipica da padiglione veneziano, quindi un ingresso con la cueva della Asmanos, con tutti gli 30 artwork dei videogiochi delle grandi case, dei publisher che abbiamo anche in Italia. Quindi una sezione Italians Do It Better curata da Matteo Bittanti e Domenico Quaranta insieme a noi, e quindi Tale of Tales, Massimo Giuntoli, Michaelo Anjanian e Lord Lenning e Sherry McKerna di Oddworld, più un video di Gabriella Parisi che illustra il contenuto di tutta la mostra. Al Culturale Candiani invece il pubblico trova un percorso più didattico con 12 vecchie console dal 1966 ai nostri giorni, 30 artwork dei grandi giochi dei publisher, 15 giochi giocabili, mentre guardi i quadri puoi anche giocare al videogame, un salone dedicato a Lord Lenning e a Oddworld, più immagini fotografiche rielaborate di Marianna Santoni, opere di Serenata e di Massimo Giuntoli, e una grande sala con tutte le fotografie degli artisti italiani di Game Art fatte da Paolo Della Corte. Ecco, quello che il mio consiglio fosse di partire proprio da quel padiglione, quello di Mestre, prima di arrivare a quello di Venezia. Io volevo chiederti, in questo mese, credo, ormai di apertura, poi da settembre in poi ci sarà un po' l'esplosione di Neoludica, perché so che aggiungerete molte, molte cose che state proprio preparando in questi giorni. E Deborah, che tipo di pubblico sta visitando la mostra? Sta visitando la mostra un pubblico internazionale meraviglioso, devo dirti. Nel primo mese abbiamo superato le 3.500 persone, che per un padiglione nuovo, nel senso gli anni passati non c'erano né l'uno né l'altro proprio fisicamente come spazi, quindi la gente, gli abitué della Biennale non li conoscono, sì. Quindi abbiamo una media di 100 persone al giorno, 80-100 persone al giorno, internazionali. Abbiamo ricevuto tantissimi giornalisti dall'estero, perché le prime due settimane veramente abbiamo fatto 150 cartelle stampa e tantissimi commenti positivi. Abbiamo anche molti italiani, e ti dico, come il pubblico della Biennale passa, vede, gira e esce, ci sono visitatori che si fermano anche un'ora e mezza a fare veramente tutte le opere d'arte, cioè tutti i videogame. Guardare, ecco, non pensate che siano da giocare, sono proprio opere d'arte, cioè sono da osservare, guardare, capire. Il videogioco è solo il punto di partenza e ogni artista ha usato quel punto di partenza per esprimere la propria arte. Da questo punto di vista, veramente è stata la prima volta, il videogioco davvero come elemento culturale. Io vi devo fare moltissimi complimenti, Deborah, per lo sforzo. Sai che è un mondo che amo moltissimo. Grazie anche a ASV, che è l'associazione che unisce gli editori di videogiochi in Italia e anche quelli europei, fra l'altro, che ha permesso proprio la nascita di questa mostra. Sì, hanno aiutato moltissimo, come tutte le università, perché abbiamo fatto veramente una rete di partner scientifici importantissima, tante università italiane, più quelle università, le università della California, e veramente è stata una grande cordata per affermare questi contenuti artistico-scientifici all'interno della Biennale. Ecco, mi piace pensare che l'Italia, che è sempre stata un po' indietro da questo punto di vista e ha sempre pensato al videogioco come una forma per perdere tempo, in realtà sia stata anche la prima nel mondo a renderlo arte, e questo ci fa semplicemente onore, perché noi siamo il paese dell'arte, fatemelo dire, perché è così, per cui sono assolutamente convinto. Verissimo, proprio questo. Non ho accennato prima, nel finire il Candiani, sì, la presenza di un'altra cosa innovativa, i ritratti di grandi creatori fatti da Samuele Arcangeli. È una cosa veramente nuova, ha fatto i ritratti di Miyamoto, Will Wright, Pajitnov e il grande quadro di Ada Lovelace, figlia di George Byron, che ha creato il software, come ci raccontavamo in mostra. E poi abbiamo su YouTube tutta la mostra puntata per puntata nel canale di Melnik 42, quindi chi vuole intanto sbirciare dal buco della serratura prima di venire a Venezia può trovarci anche lì. Grazie Deborah, voi cercate Neoludica su internet, troverete tutte le informazioni, la prima ricorrenza è proprio il sito. Grazie ancora Deborah Ferrari, buona domenica. Grazie Stefano. Ciao, grazie. A questo punto 11:25, ecco che stendo il mio tappeto rosso. Fior Fiore Coop, metti a fuoco la bontà. Vi presenta il gastronauta. Faccio entrare dalla porta principale, come sempre, Davide Paolini, il nostro gastronauta. Ciao Davide. Ciao, buongiorno, ma io non ho i tacchi, posso inciampare. Vabbè, insomma, è giusto, io ti faccio entrare così con un bicchiere di caffè in mano. Ieri hai fatto una puntata sul caffè, oggi stiamo parlando di Lost in Translation e quindi della difficoltà a volte di farci comprendere quando siamo all'estero. Parliamo del caffè in giro per il mondo invece. Ma guarda, io ieri ho parlato molto del caffè in Italia, dicendo che mediamente non si beve un buon caffè in Italia. Certo che all'estero ci sono altre usanze, quando si tenta di fare l'espresso molte volte si fanno anche così dei disastri, però devo dire che noi italiani pensiamo di avere, anzi soprattutto i baristi pensano di avere la scienza infusa nel fare il caffè, e non vanno a scuola, cioè non imparano, cioè pensano già di essere imparati e quindi molte volte si beve un pessimo caffè. Ma cosa ci vuole, dai? Si mette un po' di, cosa ci vuole? Si mette un po' di polvere nel filtro, si chiude il filtro, si schiaccia, esce l'acqua e il caffè è pronto. Scusami, è fatto. Caro mio, forse è così semplice, non è proprio così. Allora, ieri non l'ho detto apertamente, sì, ma oggi lo dico. Un paio di anni fa io sono andato all'Università del Caffè a Trieste ad assistere, a partecipare al corso dei baristi. Quindi mi sono fatto 2 giorni, ho visto, ho ascoltato e ho anche cercato di sperimentare un buon caffè e ho capito quanti errori commettono i baristi vedendo in giro per l'Italia quando li osservo mentre fanno il caffè. Quindi io credo che sicuramente se si beve non si beve un buon caffè non è colpa di quella polverina, è la colpa di come soprattutto viene utilizzata quella polverina. Poi è evidente che ci sono delle polverine veramente che sono scadenti. Io molte volte lascio il caffè nella tazzina in molte parti d'Italia e lungo le autostrade, soprattutto lascio la tazzina perché il caffè sicuramente non è all'altezza. Quindi devo dire che mediamente non si beve un buon caffè, che poi si facciano dei paragoni con l'estero è evidente, sarebbe come con altri prodotti, magari altre cose di cui sono straordinari all'estero, si facesse un confronto con l'Italia. La mia critica è non tanto per dire che all'estero si beve meglio, ma quanto in Italia si dovrebbe migliorare la qualità del caffè. Considerando che il caffè comunque viene fatto dappertutto, sono talmente tanti i posti dove si fa che, voglio dire, magari a 10 metri da dove l'hai bevuto male e c'è quello che invece lo fa perfetto. Ecco. Io capisco che il nostro problema in Italia rispetto all'estero è che noi lo beviamo in 8 nanosecondi perché questa è l'abitudine e non annusiamo mai il profumo, non stiamo mai attenti al sapore, sembra quasi, come posso dire, un rito imposto alla mattina. Arrivi in un bar, boom, lo butti giù e così sei contento tu e contento il mondo. Io credo invece che non dovrebbe essere così, anche perché ormai costa caro il caffè, Cioè ci sono ormai bar che lo fanno 1,20 € in giro per l'Italia, quindi non è che costi veramente poco, non è che ti venga regalato il caffè e quindi sicuramente bisogna anche sorbirlo con attenzione e secondo me farlo con attenzione. Poi è evidente che in Francia, in Germania, negli Stati Uniti, ma si trovano anche dei bar dove si bevono degli ottimi caffè, perché? Perché c'è gente che ha voluto imparare, non è nata imparata, e siccome ci sono anche molti professionisti all'estero, non solo in Italia, e sicuramente succede questo. Attenzione, in Italia ci sono bar dove si bevono dei caffè straordinari. Io ogni mattina, e lo dico, faccio 1 chilometro per andare a bere un caffè. Nella zona dove abito io, nel raggio di 1 chilometro, non c'è un bar degno di questo nome. Quindi prendo la bicicletta, vado a piedi, faccio 1 chilometro e bevo il caffè quando ho voglia di bere un ottimo caffè. Quindi significa che sì, ci sono bar vicino l'uno all'altro, ma molte volte ti devi anche allontanare un po'. Beh certo, devi andarlo a cercare sicuramente. Ma invece Davide Paolini cosa si prepara a casa? La classica moca oppure hai le cialde che ormai sono molto di moda? No, perché io uso la moca. E ti dirò di più, che mi piacerebbe, se avessi un po' più di tempo, di usare addirittura la napoletana. Io uso la moca, regolarmente la moca, mi faccio il caffè, sono pignolo, è evidente che molte volte succede che uso delle polverine che forse non sono all'altezza di altri. Mi raccomando, l'acqua sotto la valvola, non deve mai coprire la valvola. Sì, sicuramente la polvere che non deve superare il livello, diciamo, del suo contenitore. E poi quando comincia a fare glu glu glu glu, spegnere immediatamente e lasciarlo un momento raffreddare e buttare via una goccia la prima goccia. Quindi, allora Davide, a questo punto io farò, e vediamo un po' più o meno da casa mia a casa tua, 2 chilometri in bici per venire a bere caffè da te, così so che è buono. Tu vai. Va bene, no, come ti ho detto, ma io chilometro lo faccio per andare a bere, facciamo differenza tra l'espresso e il caffè fatto in casa, assolutamente, sì, però sono 2 cose completamente diverse, attenzione, quindi non assolutamente, cioè sicuramente la crema che emerge dall'espresso a casa è quasi impossibile farla, però insomma sono 2 caffè completamente diversi. A me piace quello con la moca, mi piace spesso, anzi ci sono alcuni ristoranti che lo fanno così, ti portano la moca in tavola alcuni, esattamente, io lo trovo abbastanza carino e divertente. Però attenzione, in questo periodo chi beve il caffè freddo, perché ci sono dei caffè freddi col bottiglione sotto nel frigorifero dei bar che io... No, dovrei, veramente... è vero, bisogna tremare, bisognerebbe farselo fare al momento, insomma, magari un bel caffè shakerato, quello è fatto al momento e vediamo che caffè usano e anche con che cosa lo shakerano. Grazie Davide, ti ringrazio, adesso mi ho fatto voglia di bere un caffè freddo perché è una delle mie passioni, buona domenica. Mi faccio segnare una sì, cosa? Sì, certo, solo. Vai. Che tutti gli ultimi campioni del mondo di caffè e di cappuccino non sono italiani. Ecco, andiamo bene. Come oggi, guarda, abbiamo fatto una puntata dove l'Italia è proprio, guarda, sul podio, al primo posto, fra gli ultimi però. Grazie, ciao, ciao Davide, ciao, ciao. Il riposo del guerriero. Cerchiamo almeno di essere i primi a portarci a casa 1000 euro. Un mistero in 24 minuti. Questo è il premio per voi, ammesso che riusciate a risolvere il mistero. Può trattarsi di una notizia della settimana oppure di un personaggio o qualcosa di particolarmente conosciuto. Per arrivare alla soluzione avrete degli indizi musicali. Più indizi ascolterete e più il premio si abbasserà. E l'indizio, il primo di questa settimana, arriva da Lucio Battisti. Con un ritmo fluente di vita nel cuore, gente. Viaggiamo, oggi l'abbiamo fatto sicuramente, questo è il primo indizio, il numero per partecipare 800240024, Claudio da Roma, ciao. Sì, salve. Allora Claudio, cominciamo, tu sai fare un ottimo caffè, sai perfettamente l'inglese e anche altre tre lingue, dimmi di sì. Sì. Ecco. Da buon italiano dici, noi ce la caviamo sempre, giusto, quando siamo in giro sì. Per il mondo. Qual è il tuo, quando approcci, visto che sei di Roma, avrai a che fare continuamente con persone straniere, immagino. E cioè, voglio dire, ti sarà capitato. Qual è la tua prima frase in inglese quando devi così conversare con qualcuno? You're welcome. Ah, you're welcome. Ecco, andiamo bene. Allora, Claudio, cosa vuoi fare? Altro indizio o vuoi cercare di dare una risposta e portarti a casa 1000 euro? No, cerco di dare la risposta. Siamo a 1000 euro, vai. Sì, la motorizzazione civile austriaca, l'ufficio di posti, ha accettato dopo 3 anni la foto sulla patente di guida con uno scolapasta in testa di un imprenditore austriaco. Figurati, non ci credo. Grazie Claudio, buona giornata, buona domenica. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ovviamente la risposta giusta si scoprirà soltanto alla fine dei 24 minuti. Aldo da Caserta, ciao Aldo. Buongiorno Stefano. Ciao Aldo, buongiorno. Eccoci qui, allora un indizio l'abbiamo scoperto e adesso tocca a te o sentirne un altro o cercare di dare una risposta. Allora, è da ieri sera che, che cerco di essere coraggioso, perché vorrei rischiare, perché ho controllato il primo indizio sul sito di Radio 24, quindi già mi ero fatto un'idea. Sì. Però Stefano, siccome è così difficile parlare con voi, cioè per fortuna, perché sono contento che avete molti ascoltatori, quindi penso che questa fortuna non mi ricapiterà più, e siccome sono indeciso tra due risposte vorrei un altro indizio. Ecco, vedi, tutto questo panegirico per poi scendere a 500 sì. euro. Eccolo qua il secondo indizio. Samba lento raccontato da Ornella Vanoni Tocchini, la Samba della Rosa. Questo è il secondo indizio. Aldo, hai mai regalato rose a qualcuno? Caro Stefano, avrei proprio dovuto rischiare. Allora, Ti stai mangiando le mani. Allora, Aldo, siamo a 500 euro. Vai. Sì. Allora, caro Stefano, per me è la notizia di Alberto Di Monaco e Charlene in viaggio di nozze in alberghi separati, hanno dovuto anche anticipare il rientro. Ma dai, grazie Aldo. Grazie a voi, buona domenica. Buona domenica a te, sai che non dico nulla, Francesco da Matera. Francesco, buongiorno. Ciao, non ci sono mai stato, Matera mi manca, è uno dei pochi posti in Italia che mi mancano purtroppo. Da vedere. Lo so, per questo lo dico. Allora, Francesco, che cosa vuoi fare? Siamo a 500 euro. Allora, io pensavo... Aspetta, vuoi un altro indizio oppure non vuoi un altro indizio? Vediamo un altro indizio. Però. Vogliamo ascoltare un altro indizio? Siamo pronti con la viabilità? Sì. Un mistero in 24 minuti. Eccoci. Allora, Francesco. Francesco, c'è ancora? Sì? Ci sono, eccoci lì. Allora, tu hai chiesto un altro indizio. Siamo a 300 euro ed ecco il terzo indizio. Di altri tempi, grande canzone Oggi un Dio non ho, ed è il terzo indizio. Siamo a 300 euro. Francesco, la tua risposta. Allora, io ho pensato alla scomunica di un vescovo cinese che non è stato, che è stato ordinato senza il mandato della Santa Sede. E il Papa si è arrabbiato. Quindi santa, ho pensato. Ma certo, ci sta perfetto. Grazie Francesco. Buona domenica. Per te sarebbero 300 euro. Un altro Francesco, questa volta da Brindisi. Sì, ciao Stefano. Ciao Francesco, siamo a 300 euro. Tre indizi, tre risposte. Sì, buona domenica comunque. Grazie. Allora, io rimango, ti dico questo. Aspetta. Allora, se non ascolti nessun altro indizio, ascoltiamo i tre indizi scoperti fino a questo momento. Sì. Viaggiare, cosa da vedere, cosa da sognare, lascia il gregge io, oggi un Dio non ho. Eccoli qua, si viaggiare, Lucio Battisti, Samba della Rosa, Vannoni e Tocchini, oggi un Dio non ho, Raff, i tre indizi, Francesco. Ecco, prima di tutto ha sollevato l'Italia, perché prima l'ha buttata giù, insomma, poi combattisti, Vannoni. Faccio apposta, lo sa. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Ma ho ragione ad arrabbiarmi, no, Francesco? Sì, mi arrabbio con me stesso per primo, voglio dire. Sì. Comunque, vabbè, io vado con l'indirizzo, la mia risposta originale, sì, magari gli indizi mi portano un po' fuori strada. Qui c'era un Thomas Tucker, è un uomo d'affari americano, sì, che ha superato per le miglia, insomma, con una compagnia americana i 10 milioni di miglia, quindi ha fatto 16 milioni di chilometri di viaggi nel mondo. Ecco, un po' come cos'è la Fra le nuvole, vero, il film, sì, con Giorgio Clooney, esattamente quello. Vedi che c'è qualcuno che ce l'ha fatta. Non so cosa poi abbia vinto, penso un viaggio internazionale per tutta la vita. Grazie. penso farà altri 16 milioni di chilometri. Infatti, ce li faremo regalare. Grazie Francesco, buona giornata. Grazie, buona giornata a te, ciao. Clotilde, della provincia di Firenze. Clotilde. Buongiorno. Buongiorno a te. Allora, tu come sei messa col caffè? Lo fai perfetto, giusto? Sai benissimo, sì, l'inglese? Io sono vivo a Vicchio. Sì? Vicchio è il paese dove sono nati Giotto e il Beato Angelico. Ecco, quindi siamo a posto. Vicino Firenze. Oh, sì. Là, ecco, sai l'italiano perfettamente. Quindi portaci per cortesia così in alto e dai una risposta che sia una risposta con la R maiuscola. O vuoi un altro indizio, Clotilde? Non lo so. No, non voglio altri indizi, immaginavo. Anche perché altrimenti mi confondo. servirebbero come sempre al contrario, ma vabbè, okay, vai. Ma dunque, io non so se la mia risposta è giusta, oppure se è un sogno. Comunque l'ho letta stamattina sul giornale e mi ha fatto così piacere che spero sia la risposta giusta. Vai Clotilde, vogliamo sentire. Allora, gli angeli della monnezza a Napoli. Sì. Napoli è lontana, quindi bisogna partire, viaggiare per arrivare. Beh, i napoletani no, non ci devono viaggiare. È vero, i napoletani no, ma gli angeli della monnezza pare che arrivino un po' da tutta dappertutto, Italia. Certo, dappertutto, certo. Quindi quello è l'arrivo. L'arrivo, che l'idea che mi sono fatta. Va bene. Poi, No, scusami, poi stavi dando una spiegazione anche altri indizi. Quindi l'idea che questi ragazzi fanno anche del compostaggio, cercano di trarre dalla monnezza i fiori. I fiori, sì, certo. E poi il senza Dio, perché non hanno nessuno alle spalle, è partita dalla loro iniziativa, dalla loro idea. Come spesso in Italia le cose funzionano così. Ecco. Grazie Clotilde. Prego. Buona giornata, grazie. Grazie a tutti i volontari, perché l'Italia vive tanto sui volontari. Marcello da Forlì. Marcello. Ciao. Ciao Marcello. Allora, la tua risposta o un indizio da ascoltare? Devi dirmelo tu. Un indizio per quelle risposte che in mente le hanno già date. Allora, senti questa. Spaghetti e buon umore non sono cose da signore, ma sono buone per un tipo come me. Un tavolo di amici, due chitarre, una canzone, mille stelle per lampione su nel cielo. Spaghetti e buon umore, niente cure né dottore, ma la gioia in ogni cuore sempre c'è. Se c'è qualcuno che la pensa come me, l'invito a casa mia, può venire a tutte l'ore, che spaghetti e buon umore troverà. Eccoci qua, allora era il quartetto Cetra, avrete immagino riconosciuto Marcello, questo era Spaghetti e Buon Umore, che mai devono mancare sulla nostra tavola e nella nostra vita. Marcello. Niente, questo mi riporta una delle due notizie che ho in mente, quello dello scolapasti, della patente, non so se posso dire personaggio. Puoi dire personaggio a questo punto? Sì, dico personaggio. Ammesso che tu sappia il nome. È un austriaco. Possiamo dire che è un austriaco, esatto, perché il nome non si sa. Grazie Marcello. Ciao, quasi siamo agli sgoccioli, sì. E mancano 10 secondi, però ecco gli sgoccioli. Li facciamo sentire? Sì, perché in 10 secondi non ce la facciamo a prendere altre. Telefonate. Ma anche perché io lo dicevo oggi, insomma, abbiamo così in qualche modo detto che un italiano e gli là, almeno gli italiani si portano a casa 1.000 euro. Qualcuno ci è riuscito, davvero. Claudio, ciao, buona giornata, buona domenica, con 1.000 euro in più. Grazie, you're welcome al premio allora. Assolutamente sì. Allora è vero, proprio in Austria, è stato dato il permesso di mettere sulla patente, da qui rosa, il secondo indizio, perché la patente è rosa anche là, si viaggiare perché si parla di patente per l'auto, a un pastafariano. Allora, i pastafariani sono nati in Kansas 7 giorni fa e sono degli atei fondamentalmente, la cui religione è quella di adorare la pasta. Adesso non so esattamente in cosa consista, comunque sia chiaramente una religione parodistica, questo bisogna dirlo, e in testa mettono uno scolapasta, e questo tizio ha proprio chiesto che sulla foto della patente ci fosse lui con lo scolapasta. Alla fine ce l'ha fatta, Claudio, ecco. Sì, il gran maestro spaghetto volante si chiama. Gran maestro spaghetto volante si chiama lui, hai ragione. Il dio al quale dobbiamo rivolgerci allora. È credo... la religione di Davide Paolini. Indubbiamente, guarda, a mezzogiorno e mezza luna sicuramente molti di noi italiani adoreranno questo dio, immagino, spero che lo possano fare ovviamente e goderselo. E per te invece 1.000 euro e grazie ancora. Ciao Claudio. Grazie, ciao. Buona domenica, grazie davvero a tutti come sempre per aver seguito Il Riposo del Guerriero, che torna domenica prossima alle 10 con un nuovo mistero e quindi altri 1.000 euro per voi. Sono contento di essere riuscito a regalare il massimo del premio oggi, grazie alla redazione di Giorgio De Luca e Viola Bottoni, grazie all'assistenza di Laura Vanossi e Filippo Aureggi in regia. Ancora buona domenica da Stefano Gallarini.